Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Con l'arrivo dell'estate aumentano i prodotti congelati, surgelati o refrigerati da trasportare. I veicoli percorrono chilometri tra stop and go nel corso della stessa giornata. Ogni fermata è una consegna e ogni consegna significa aprire e richiudere il portellone del camion per poi ripartire. Ma cosa succede quando la merce da consegnare ha bisogno di essere mantenuta a una temperatura costante e controllata dal produttore fino al banco della vendita? La legge prescrive che per determinate categorie di prodotti deperibili vengano effettuati i trasporti frigoriferi e refrigerati nel corso dei quali sia rispettata lungo tutto il percorso la cosiddetta catena del freddo. Una variazione anche minima di temperatura o in alcuni casi estremi i processi di scongelamento potrebbero infatti danneggiare i prodotti con conseguenze anche gravi per i consumatori finali. Ma quali sono le regole da rispettare? Quali i veicoli da utilizzare? E soprattutto, quali le procedure che garantiscono anche d'estate, quando il caldo incalza, trasporti sempre perfetti e sicuri? Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E come avete ascoltato dalla scheda iniziale, con il caldo i rischi che i prodotti refrigerati o surgelati subiscano dei danni durante il trasporto o l'immagazzinamento aumentano. Ecco perché è buona regola prestare in questo periodo la massima attenzione alla cosiddetta catena del freddo. Ne parliamo con Mauro Sarrecchia, segretario generale di Transfrigorutti Italia. Si tratta della necessità che non dipende soltanto da un obbligo di legge, ma soprattutto a tutela della sicurezza dei consumatori, che le merci che hanno la necessità di essere conservate ad una determinata temperatura lo siano dal momento della produzione fino al momento della messa a disposizione del consumatore. Quindi la catena del freddo è la catena che lega il produttore, il distributore, il trasportatore e infine colui il quale vende la merce al consumatore finale, e poi anzi ci sarebbe una appendice, la prudenza del consumatore nel mantenere a temperatura corretta il prodotto che compra, perché poi la rottura del freddo si può determinare anche semplicemente per un'errata conservazione del frigorifero domestico. Certo, con tutte le conseguenze sanitarie che ciò comporta. Fra un po' parleremo nel dettaglio di questa catena che vede il mondo del trasporto protagonista solo per un pezzo, in realtà, come ha correttamente già spiegato lei. Io prima però parlavo di refrigerati e surgelati. Ecco, cominciamo con il parlare già di queste due grandi famiglie per le quali ci sono delle differenze enormi anche per quanto riguarda la temperatura di trasporto. Allora, diciamo che le merci sono distinte in vari gruppi a seconda della temperatura alla quale hanno bisogno di essere trasportate, e i veicoli con le quali sono trasportate sono appunto veicoli definiti attraverso almeno tre classi: i veicoli isotermici, cioè i veicoli che vengono refrigerati in precedenza e che poi sono in grado di mantenere la temperatura; i veicoli refrigeranti, cioè veicoli che hanno una sorgente di freddo, che può essere ghiaccio naturale, possono essere piastre utettiche, eccetera, capaci di mantenerli ad una temperatura di fino a meno 20, e poi i veicoli frigoriferi, che invece sono in grado, avendo un motore autonomo, di portare la temperatura anche oltre questa soglia. Ciascuna merce ha poi una temperatura definita dalla norma alla quale deve essere trasportata, temperature che sono molto diverse. Il latte deve essere trasportato a 4 gradi sopra zero, ovviamente i gelati devono andare a 20 gradi sotto zero. A proposito sempre della catena del freddo, ritorniamo ad occuparci di questo delicatissimo momento del trasporto dei prodotti surgelati o congelati. Quando possono avvenire delle rotture importanti di questa catena del freddo? Allora, le rotture del freddo possono avvenire in due particolari circostanze. La prima circostanza è nella messa a disposizione del trasportatore della merce, perché non sempre la merce viene caricata tirandola fuori dalla cella, oppure su un camion che è immediatamente alla temperatura ideale. Tant'è vero che si deve far ricorso, almeno nelle fasi più importanti e da parte delle aziende più avvedute, di una procedura che è detta pre-cooling, che significa appunto la procedura di garanzia che la merce nel passaggio dalle celle al camion non subisca shock termici. Questo si fa sia raffreddando precedentemente il camion e portandolo a temperatura corretta, sia evitando che la merce sosti in banchina oltre il tempo necessario. Ma la rottura vera della catena del freddo paradossalmente avviene molto più a valle e spesso avviene addirittura nelle stigliature del supermercato, che non sempre, in parte per il fatto che ci sono molte mani di consumatori che aprono e chiudono gli scaffali, in parte per altri motivi che non sto qui a dire, però ecco, quelle sono veri punti di criticità, e lì io non sarei esattamente sicuro che si possa mantenere la temperatura, sempre la temperatura alla quale quelle merci devono essere correttamente conservate. Ecco, a proposito di questo, è possibile dare qualche indicazione ai consumatori, indicare qualche metodo empirico, ovviamente, per quello che può servire per capire se c'è stata o meno una rottura del freddo? Ad esempio, so che in alcuni casi, per prodotti particolarmente delicati, ci sono addirittura dei sensori che mostrano se ci sono state o meno delle rotture della catena del freddo. Sono dei sensori e delle etichette che cambiano colore a seconda del fatto che ci sia stato o meno uno shock. Purtroppo questa cosa non è così diffusa come dovrebbe, come noi auspicheremmo, e quindi il consumatore poi deve avere semplicemente l'occhio lungo. Per esempio, quando c'è troppa brina su un prodotto, questo non è mai un segnale positivo. Se un contenitore, se un pozzetto è mantenuto aperto, oppure si vede che c'è la merce messa in maniera arruffata, probabilmente significa che lì qualcosa non è andato come sarebbe dovuto andare. Ma paradossalmente ci sono situazioni nelle quali è lo stesso consumatore a rompere la catena del freddo. Si pensi semplicemente al fatto che spesso magari nel bancone degli yogurt la gente preferisce andare a pescare lo yogurt più in fondo perché ha una data di scadenza successiva, piuttosto che prendere lo yogurt in prima fila, con il risultato però di tenere aperto il bancone molto più tempo di quanto non sarebbe necessario. Quindi dobbiamo essere noi stessi consumatori a fare attenzione a questo tipo di pratiche. Ci aiuterebbero queste etichette di cui lei parlava, e che sarebbe bene diventassero non soltanto un optional delle aziende più avvedute, ma uno strumento previsto e reso obbligatorio dalla legge. Ecco, a proposito di legge, dal punto di vista normativo c'è tutto un dibattito attorno alla normativa che credo si chiami ATP proprio, e che regola questo tipo di movimentazioni. Ci saranno degli sviluppi nei prossimi mesi? Sì, dunque, intanto bisogna dire che non tutti gli alimenti ricadono all'interno della normativa ATP. Faccio un esempio banalissimo: la frutta non rientra nella normativa ATP, eppure la frutta è difficile pensare ad una frutta trasportata sotto il sole o, diciamo, mal conservata. In ogni caso, per quello che riguarda proprio specificamente i prodotti sottoposti a normativa ATP, bisogna ricordare che questo è un accordo che viaggia soltanto all'unanimità, e cioè qualsiasi modifica che si debba fare all'accordo ATP si deve poter fare all'unanimità dei sottoscrittori, il che rende assolutamente difficile modificare l'ATP. Tant'è vero che molti paesi stanno dando vita ad accordi bilaterali o multilaterali che in qualche modo si affiancano all'ATP e lo rendono più particolarmente attento alle esigenze che sono diverse nei vari paesi. Si pensi alle questioni che pone la Russia ogni novembre, quando c'è la riunione del WP11 a Ginevra, che deve definire le modifiche all'ATP, che ha evidentemente esigenze di tutto altro tenore rispetto alle esigenze che può avere la Sicilia o può avere la Spagna. Certo. Noi stiamo dando vita, insieme ai colleghi Transfrigolut Francia, Spagna e ad altri paesi, ad un tentativo di accordo bilaterale che tra l'altro dovrebbe servire anche ai trasportatori, perché dovrebbe consentire di avere un'unica normativa riguardante i mezzi che trasportano prodotti refrigerati o surgelati o congelati,